L'emicrania che più mi ha fatto soffrire è stata l'emicrania improvvisa, quella determinata da un'emozione violenta, difficilmente dettata dalla gioia, purtroppo. Queste sono state, secondo me, le emicranie più difficili, che direi che sono anche le emicranie... Difficili anche da sopportare. Sì, difficili da sopportare, perché vivi quasi una sorta di implosione. Certo, in effetti il cervello così si difende o così parla, così esterna un dolore che hai dentro in questo caso. Sì, in questo caso dice attenzione, ti sei fatta male. Ecco, occupatene. Sì. Senti Oriella, le ballerine sono molto attente a quelle che mangiano, seguono diete immagino anche rigorose, sono magre, a volte magrissime. Allora, secondo te la tua dieta, o meglio il tuo stile alimentare come lo chiamano i medici, ha influito sulla tua emicrania in positivo o in negativo? Ma io mi sono reso conto, essendo stata io una grandissima e fortunata, che non ho mai avuto il problema della dieta, casomai ho avuto il problema contrario, cioè di alimentarmi con maggior attenzione, mi sono resa conto che qualche volta mangiare un po' per forza in uno stato di ansia quasi è controproducente. Però mi sono anche resa conto che qualche volta in cui mi sono un po' dimenticata di me, poi arrivava un altro tipo di emicrania, che è quella del calo degli zuccheri. Quindi io penso che l'emicrania molto spesso vada gestita dal proprio modo di essere. E mi sembra che l'emicrania voglia regolarità, giusto? Sì, l'emicrania vuole dirti attento, sei stressato, attento, stai soffrendo, attento, non ti sei alimentato abbastanza. Stai tirando un po' troppo la corda. Sì, sono attento, non ti sei coperto abbastanza. Secondo me l'emicrania è un vero campanello d'allarme per chi ne soffre.